Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con i periodici in edicola in questi giorni. I periodici hanno tutti aperture, devo dire copertine molto diverse, almeno per quanto riguarda il panorama italiano. Il venerdì, l'avete visto ieri, dedicato alla Romania, paese che, come dice la copertina del venerdì, ci fa paura. Panorama puntato sulle vitamine sotto accusa, un problema che avevamo segnalato anche da qualche contributo di stampa estera, cioè il problema dell'utilizzo delle vitamine e anche della resistenza degli antibiotici, dell'efficacia degli antibiotici. L'Espresso invece ha un'inchiesta all'altra velocità dedicata appunto a chi non prende l'alta velocità ma invece i pendolari, quindi si deve accontentare di tutt'altra velocità, verrebbe da dire. Ma cominciamo dal venerdì, perché il venerdì ha un abbinamento abbastanza interessante. Si tratta di due rubriche, l'una di Giorgio Bocca, quella di Fatti Nostri, e l'altra invece di Piero Ottone, Vizi e Virtù. Sono dedicate tutte e due a due atteggiamenti tipicamente nostri, tipicamente italiani. Bocca si chiede: la TV banalizza l'italiano? Assolutamente sì. La risposta è ironica, come si scopre poi nella rubrica, perché spiega Bocca: la lingua in uso alla TV brodaglia di luoghi comuni, neologismi tecnici e stranieri che stanno seppellendo l'italiano come sotto una colla densa e opaca. Capita di rimpiangere Arlecchino, le maschere, il teatro dell'arte e le forme di espressione popolari, ma vive quando adesso si accende la televisione e ci cala addosso il nuovo italiano da tutti, politici e plebei, colti e analfabeti, parlato con evidente compiacimento e sussiego. E più avanti si scopre appunto il motivo di questo titolo. Assolutamente sì, dice: credevamo che questo fosse ancora il paese spagnolesco del servo vostro Sior, delle false modestie, delle prudenti esitazioni, e invece è un paese che abbonda di aggettivi quali solare, determinato, e perché l'intervistatore non abbia il minimo dubbio, un assolutamente sì. La TV ha finalmente cancellato dalla lingua e dal carattere italiano gli occhi abbassati di Don Abbondio, io non ho visto, non ho sentito dell'omertà mafiosa. Non bastano i sì, ci vogliono gli assolutamente sì. La TV, conclude Bocca, ci ha regalato a tutti il diritto di iperbole, e a tutti i politici poi ha dato la preziosa licenza dell'autorevolezza da video. Puoi dire tutte le sciocchezze che vuoi, affermare tutto e smentire tutto. Allora parliamo peggio, insomma, sembrerebbe di capire da questa rubrica di Bocca. Forse anche viviamo abbastanza male, dice Piero Ottone, perché la sua rubrica invece ha questo titolo: ma non rispettare la fila non vuol dire essere geniali. Anche qui vizi e virtù italiane. Qualche anima bella è l'esordio di Piero Ottone, dice talvolta che noi italiani siamo una nazione affascinante ed esasperante. Mai è stato coniato per definirci un accoppiamento più narcisistico di questo. E si domanda: affascinante perché? Siamo una vecchia nazione come tante altre. Parlare di fascino per buone qualità come possono essere la disponibilità d'animo, la generosità, una certa immaginazione che ci viene unanimemente riconosciuta, dice, questo mi sembra un po' eccessivo. Ma è soprattutto narcisistico l'altro aggettivo, che è esasperanti. Lo si applica di solito agli individui geniali che fanno impazzire per le loro imprese estrosi, i loro capricci, le loro idiosincrasie. Ma io non vedo alcun segno di genialità incompresa, scrive Ottone, se non si sta in coda alla fermata dell'autobus, se si buttano i mozziconi di sigaretta sul marciapiede, se si superano i limiti di velocità o non si pagano le tasse. Quindi un paese che più che di geniali sembra fatto da persone poco educate o che scordano rapidamente la buona educazione e i precetti più elementari del vivere civile. Questa è la fotografia che ci viene associando due delle rubriche che avete visto ieri sul venerdì di Repubblica, appunto, sul comportamenti, il modo di parlare e il modo di parlare viziato alla televisione, il modo di comportarsi che invece viene stigmatizzato da Piero Ottone. Tuttavia, Tuttavia, dall'estero apprendiamo che c'è chi vive peggio di noi o perlomeno più costretto di noi. Qualche settimana fa parlavamo dei divieti che proliferano nei comuni italiani. In nome dell'ordine pubblico si vietano tutta una serie di comportamenti, da quello di mangiare in pubblico a quello di sedere sulle panchine oltre un certo numero. C'è chi sta peggio di noi, lo scrive l'Economist di questa settimana. Da Dubai c'è una stretta in arrivo per le regole di comportamento in pubblico. Qual è il problema? Il problema è che Dubai, come sapete, è anche una meta turistica importante, ha milioni e milioni di turisti e avvertono appunto le colonne dell'Economist, si sta un po' diluendo la sua identità e quindi stanno un po' venendo meno certe rigidità del comportamento legato ai precetti islamici. Cosa si è pensato? Il principe ha proposto un codice di condotta pubblica per stringere sulle le effusioni, i modi di comportamento, specialmente in pubblico. Quindi ci sono restrizioni in arrivo per quanto riguarda il bere, il ballare e anche per le manifestazioni pubbliche di affettuosità, come ad esempio il bacio. Quindi, volendo sintetizzare al massimo, sarà presto vietato a Dubai baciarsi in pubblico, baciarsi per strada, ma il codice, come appunto spiega l'Economist, è in realtà anche mirato a limitare i comportamenti che possono essere più tipici di noi occidentali in luoghi chiusi, in luoghi che non siano pubblici nell'Emirato. E quindi, se da una certa parte nostra appunto abbiamo i divieti che proliferano nei comuni, ci sono anche divieti di origine più religiosa che stanno sorgendo, che si stanno facendo più forti in altre parti del mondo. E allora vediamo un po' che tempo fa. È una di quelle domande che si fanno sempre anche per chiacchierare. Che tempo ha fatto, soprattutto perché oggi primo giorno di primavera uno si guarda alle spalle e dice: ma l'inverno com'è stato? Qualche settimana fa parlavamo del fatto che abbia fatto molto freddo quest'inverno. C'è Focus in edicola che si chiede perché ha fatto freddo e prima di tutto si domanda se ha fatto veramente freddo quest'inverno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Allora, ci sono 9 record nell'inverno 2008-2009 che vengono riassunti da una tabella dentro Focus. Per quanto riguarda l'Italia, è stato il 6 dicembre più piovoso dal 1800, il terzo innevamento del secolo sulle Dolomiti meridionali. A Venezia c'è stato 1,56 m di acqua alta e della quarta altezza registrata in tutti i tempi. Così come a Roma i 400 mm di pioggia in 45 giorni non accadevano dal 1959, però non è stata dura solo da noi, perché in Olanda i canali si sono congelati completamente, non succedeva da 13 anni. In Francia è stato registrato il gennaio più freddo dal 1987, nel Maine, negli Stati Uniti, c'è stato il record assoluto di freddo, meno 45,6 gradi centigradi, e per quanto riguarda l'Artico, la maggiore estensione della banchisa degli ultimi 6 anni. Ora però la disamina di Focus ci avverte che in realtà ci aspetta un'estate probabilmente calda, con temperature più alte della media, che comunque le temperature invernali sono in risalita, almeno dal punto di vista medio, le temperature medie invernali si stanno alzando più di quelle estive, e soprattutto ci avverte che abbiamo già delle rilevazioni di cui disponiamo, secondo le quali in tempi relativamente recenti ha fatto pure più freddo, perché tra la fine del Medioevo e il 1850 il clima in Europa fu più freddo di adesso. Infatti questo periodo è stato chiamato la piccola era glaciale. Alcuni inverni furono molto rigidi, spesso gelava il Tamigi a Londra, a volte anche la laguna di Venezia. Avvenne per esempio negli anni del 1432, nel 1487, nel 1491 e ancora l'anno più vicino a noi nel 1709. Perché nacque la piccola era glaciale? Beh, qui il riscaldamento, l'effetto serra, cioè le cose di cui sentiamo parlare in questi anni, evidentemente non c'entrano perché siamo prima della rivoluzione industriale, e quindi gli scienziati si stanno domandando che cosa può avere alterato il clima dal punto di vista dello sviluppo umano, dell'attività umana. Qualche ipotesi fa riferimento appunto a una certa deforestazione dell'Europa, una deforestazione avvenuta nel Medioevo. La diminuzione degli alberi può avere aumentato la riflettività del suolo e quindi la luce solare sarebbe stata assorbita, si spiega in questo box di focus, in quantità minore, avrebbe causato una situazione stabile di alta pressione nella zona. Magazine 24. Bentornati al nostro appuntamento con i periodici in edicola. Stavamo parlando del tempo che fa, e vediamo allora come va l'economia che fa, come vanno le cose in qualche modo, perché l'Espresso riprende un tema che abbiamo visto gironzolare nei periodici in diverse occasioni, italiani e stranieri, quello dei settori che vanno bene con la crisi. Con la crisi andiamo a gonfie vele, è il lavoro presentato da Roberta Carlini. Quali sono i settori che vanno a gonfie vele? Abbigliamento, cosmetici, libri, fast food, crociere, gioco. L'economia ristagna, ma in alcuni settori c'è chi vede crescere affari e fatturato e assume addetti. Viaggio nell'altra faccia del mercato. Roberta Carlini, tra l'altro, parte proprio dal rossetto con tutti i prodotti di bellezza. Avevamo parlato mesi fa del cosiddetto indice del rossetto, che è quello che vorrebbe una sorta di correlazione inversa tra l'utilizzo dei cosmetici da parte appunto delle donne in periodi di crisi e l'andamento dell'economia, cioè peggio va l'economia, più c'è una disponibilità a spendere in cosmetici, ovviamente di poco importo, da parte delle signore, delle signorine. Nell'articolo della Carlini si riferisce appunto che nel 2009 McDonald's Italia prevede di aprire 30 nuovi fast food, ci saranno 1200 assunzioni. Però saranno probabilmente assunzioni part-time. Ci sono poi delle prospettive di crescita anche per IKEA. Le vendite in Italia sono cresciute del 5,8% nel 2008. Quest'anno IKEA aprirà altri 4 magazzini. C'è poi una tendenza, che viene segnalata sempre da queste pagine dell'Espresso: la laurea può attendere. Allarme rosso per i laureati perché nei primi 2 mesi dell'anno sono scese drasticamente le richieste al magazzino dei dati dei neodottori che il consorzio Alma Laurea mette a disposizione delle imprese in cerca di cervelli. C'è stato un calo di queste richieste di neolaureati del 23% come dato medio, il che fa prevedere un'inversione della tendenza che faticosamente stava facendo salire la quota di laureati assunti nel nostro sistema produttivo. Prima della crisi si prevedeva che quest'anno la quota di laureati assunti salisse al 10%. Sullo stesso numero dell'Espresso, tra l'altro, c'è una lettera che manda un lettore non laureato e che dice: ho la maturità classica, per varie ragioni non mi sono laureato. Nel sentire i dati occupazionali dei laureati italiani mi sono guardato intorno, sa cosa ho scoperto? Ho scoperto che mia moglie, laurea in lettere moderne con 110 lode, pubblicazione della tesi, lavora come copywriter precaria in una casa editrice da 9 anni. Ho scoperto che sua sorella, laurea in fisica nucleare, dopo 8 anni di docenza in università tedesche e americane e 125 pubblicazioni, prende 1.200 € al mese dall'Università di Milano. Ho scoperto che il mio amico Alessandro, ingegnere elettronico, passa la metà di ogni mese in Cina per evitare che la sua ditta non lo ritenga più indispensabile. E così via. La lettera prosegue ancora citando i casi di laureati, laureate anche brillanti, tutte conoscenze più o meno vicine a questo lettore, che non hanno un impiego, verrebbe da dire, adeguato allo sforzo profuso. Lui, per quanto lo riguarda, si dichiara contratto a tempo indeterminato, responsabile di produzione in una piccola casa editrice milanese. Fortunato? Ma che non laureato, quindi costo meno. Questo il consiglio, l'ammonimento che il lettore affida alle lettere pubblicate oggi, questa settimana dall'Espresso, è un consiglio davvero che, messo insieme con la minore richiesta di dati per il consorzio Alma Laurea, fa un po' preoccupare per chi invece in questo momento sta investendo sulla sua formazione. Cambiamo completamente argomento, ma parliamo sempre di una tendenza. Questa invece sta davvero esplodendo. Ne parlano questa settimana due testate, l'una è Panorama, l'altra è Tempi. Sto parlando dei giochi. I giochi hanno avuto un vero e proprio boom. In realtà la loro ascesa non si è mai fermata, ma negli ultimi anni è diventata addirittura impressionante. Uno speciale curato da Daniele Martini su Panorama ci avvisa che ci sono state 47 miliardi e mezzo di euro di giocate nel 2008, con una crescita del 12,7%. 50 miliardi è la previsione delle giocate a fine 2009, visto l'andamento dei primissimi mesi dell'anno. Nel primo bimestre sono stati complessivamente giocati 8,6 miliardi, ovvero più 9,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. A ottobre 2008, tra l'altro, ricorda Martini, è stato lanciato in rete il poker. L'impatto è stato così travolgente, a colpi di decine di milioni di giocate di euro in più da un mese all'altro, da lasciare esterrefatti i più ottimisti. Anche le donne sono entrate in partita, protagoniste di tornei seguitissimi, tanto che ora sta nascendo una specie di Facebook del poker in rosa, cioè un luogo dove le giocatrici si scambiano esperienze e consigli. Ma appunto, riassume Martini, sono anni che il settore va avanti così, un record dopo l'altro, con incrementi impressionanti. C'erano 19 miliardi e mezzo di giocate nel 2004, 27 nell'anno successivo, sono diventati 34 nel 2006. Appunto, come dicevamo, si pensa di raggiungere i 50 miliardi alla fine di quest'anno. Tra l'altro non sembra esserci una sorta di correlazione neanche con la disponibilità economica, se dobbiamo mettere insieme i dati sull'andamento generale dell'economia e quello invece dei giochi. Anzi, le due cose sembrano assolutamente sganciate. Perché, prova ad analizzare sempre Daniele Martini sul numero di Panorama, oggi il giocatore non è più considerato un reietto. Anzi, la figura del maniaco incallito è stata sostituita da un identikit più sfumato, meno preciso e marcato. Giocatori possono essere tutti e nessuno. Giocare non è più ritenuto per forza un vizio. L'inevitabile anticamera di ludopatie devastanti, ma invece un'attività come un'altra per chi è appassionato. Un passatempo di tipo particolare, quanto si vuole, da regolamentare con oculatezza, da tenere sotto controllo tramite un'agenzia statale, ma non da ostacolare o sabotare. Assolutamente non credo che l'erario voglia ostacolarlo, visto che è una delle voci che costantemente risultano in crescita negli incassi statali, e in questo periodo appunto di economia in altri settori stagnante una voce di imposte in crescita non è certo quella da ostacolare. Di giochi si occupa anche Tempi, vi dicevo, scommesse d'Europa. Mentre la Commissione Europea prende atto del boom dei casinò online, con annessi pericoli e ombre, il Parlamento si divide sulle previsioni. Per i truffatori sarà davvero una cuccagna? Approccio quindi del tutto diverso da parte di Tempi, che ci avvisa sono 15 miliardi finiti nelle macchinette, qui parliamo quindi di queste slot machine, nell'anno della crisi, senza contare internet. C'è un rapporto allarmista di livello europeo che spacca la politica. La crisi economica e internet, riassume Tempi, sono i due più forti propulsori della crescita del gioco d'azzardo in Italia e nel resto d'Europa. A qualcuno sembrerà strano, ma lotterie, concorsi a premi, scommesse e slot machine prosperano come non mai proprio quando la crescita economica si ferma. Il dato complessivo per il 2008 nei 27 stati dell'Unione Europea. I cittadini di questi stati, noi cittadini di questi stati, abbiamo lasciato nelle casse delle sole macchinette da gioco 1.300.000, la bella cifra di 15 miliardi e 132 milioni di euro al netto delle vincite pagate. Il rapporto di cui facenno Tempi è stato curato dall'europarlamentare danese Christel Schaldemose, che è relatrice di questo rapporto sulla integrità del gioco d'azzardo online. Un rapporto in cui si avvisa appunto che potrebbero esserci delle tentazioni per le truffe, per comportamenti poco chiari, anche se non tutti gli eurodeputati sono d'accordo sul fatto che il gioco d'azzardo online fornisca maggiori opportunità di pratiche corrotte. E infatti, avverte Tempi, al momento del voto sulla relazione della danese Schaldemose, i favorevoli sono stati 544, i contrari 36, gli astenuti sono stati 66. E con questa segnalazione sulla passione e sui rischi del gioco il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io ringrazio come sempre Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma, Filippo Aureggi che è stato in regia. Vi do appuntamento alla prossima settimana.